Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La riapertura non è fatta solo di misure di sicurezza e di prevenzione del contagio. Stiamo guardando anche oltre. Dal prossimo settembre, ad esempio, troverà applicazione la legge sull'educazione civica, che torna ad essere obbligatoria, valutata con voto. Il ritorno dell'educazione civica riguarderà tutti i livelli di istruzione, dai bambini dell'infanzia al secondo ciclo. Grande ritorno quindi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dell'educazione civica a scuola, come avete appena sentito, l'ha annunciato oggi la ministra dell'istruzione Azzolina, quindi una materia con voto in pagella. Che ne pensate? Siccome l'avevo già annunciato sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ci sono già molti, tantissimi vostri messaggi che commentano che cosa ne pensano di questo ritorno dell'educazione civica, che negli anni passati si è fatto un po' così, diciamo, all'acqua di rose, poi era scomparsa. Adesso, già un anno fa, era stata approvata la legge per il suo ritorno e adesso l'annuncio ufficiale della ministra Azzolina. Poi ne parleremo con un costituzionalista, Celotto, e con il rappresentante dei presidi Rusconi. Poi tra i temi della puntata di questa sera si torna a parlare del delitto di Garlasco, perché l'avvocata dell'unico indagato che è in carcere con la condanna a 16 anni, Alberto Stasi, chiede di ribaltare la sentenza, di una revisione insomma del processo, un caso rarissimo quando già c'è una sentenza definitiva, e parleremo anche di questo tema. Per i vostri commenti, pagina Facebook appunto di Effetto Notte, oppure i WhatsApp che sono in parte tornati al 349-238-6666, 349-238-6666, anche per quanto riguarda gli sms, ma ormai preferite i WhatsApp. Sintesi della giornata, poi approfondimento con gli ospiti come sempre. Vi ricordo il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure Roby con la Y linetta bassa Giordano. I dati sul coronavirus in Italia sono 122 i nuovi casi di contagio e in 12 regioni non si registra nessuna vittima. E la Germania decide un nuovo lockdown per 560.000 persone. Scuola col nuovo anno torna all'educazione civica obbligatoria e con voto in pagella, e per il rientro a settembre turni differenziati e lezioni in aula anche il sabato e online. Il delitto di Garlasco, Stasi chiede la revisione della sentenza. Non l'ha uccisa Alberto, ci sono nuove prove, sostiene l'avvocata dell'uomo in carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Metropolitana di Milano, tangenti sugli appalti per 150 milioni di euro, arrestati 13 dirigenti legati ad ATM. Sport calcio, anche oggi in campo la Serie A maschile per la 27esima giornata di campionato. Per il tennis, Djokovic è risultato positivo al coronavirus, sotto accusa il torneo benefico organizzato dal numero uno serbo Azzara. Partiamo quindi, appunto, come sempre, dai dati sul coronavirus nel nostro paese. Sono 122 i nuovi casi di contagio in Italia, con un incremento rispetto a ieri di appena lo 0,51%. Il numero dei decessi registrati in Italia si ferma a 18, un dato che riporta al 2 marzo, la fase iniziale della pandemia. Quindi questi i dati principali contenuti nel consueto aggiornamento della Protezione Civile. Cala il numero dei nuovi casi di coronavirus, diminuiscono i morti e il numero complessivo dei malati scende sotto il tetto dei 20.000 casi. Il nuovo bollettino della Protezione Civile fissa così a 122 nuovi contagi, circa la metà rispetto al giorno precedente. In 8 regioni poi non si registrano casi e calano anche i decessi, 18 nelle ultime 24 ore, il numero più basso in un giorno dall'inizio dell'emergenza. Vanno avanti intanto le inchieste sul periodo più critico della pandemia. La Procura di Reggio Emilia ha disposto la riesumazione e l'autopsia di 18 salme di anziani morti per il coronavirus nella casa di carità San Giuseppe. La residenza si trova a Montecchio Emilia, uno dei luoghi più colpiti dalla diffusione del Covid nella provincia reggiana. 5 gli indagati e 2 le ipotesi di reato, omicidio colposo e delitto colposo contro la salute pubblica. La magistratura vuole accertare eventuali responsabilità e negligenze. Tra gli indagati ci sono il parroco di Montecchio, responsabile della struttura, il direttore e la dirigente della casa di carità. Tutti si dichiarano estranei ai fatti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda l'epidemia in Europa, massima allerta in Germania per il focolaio di coronavirus nel nord del paese. Il totale dei contagiati nel distretto di Gütersloh sfiora i 2.000, mentre il capo del Robert Koch Institute riconosce che può verificarsi una seconda ondata di casi. torna in lockdown il distretto di Gütersloh insieme a quello confinante di Warendorf. Si rimaterializza dunque l'incubo Covid-19 nel nord della Germania per circa 650.000 persone dopo l'esplosione del caso del mattatoio Tönnies, azienda di carni dove centinaia di dipendenti sono rimasti contagiati nelle ultime settimane. Lo scopo del lockdown è far calmare la situazione, allargare i test e verificare se il virus si sia già propagato alla popolazione, ha detto in conferenza stampa il ministro presidente della Nordrhein-Westfalia Laschet, che ha indugiato fino all'ultimo sulla chiusura. Una chiusura che durerà una settimana fino al 30 giugno, previsto il divieto di assembramento per oltre due persone, chiusi bar, palestre, cinema, teatri e musei, e preoccupa ora anche un altro mattatoio a Oldenburg, nei pressi di Brema. Metà dei 50 dipendenti testati ha il coronavirus, attesi i risultati dei test per gli altri 1.000. Si pone anche il problema dei viaggi da queste zone. Tecnicamente non è vietato uscirne, ma è fortemente sconsigliato. Alcuni Länder tedeschi, come Baviera e Mecklenburg-Vorpommern, hanno già cominciato a rifiutare turisti dall'area. Lo Schleswig-Holstein ordina quarantene per chi arriva dalle aree di contagio. Il problema potrebbe porsi anche nei paesi europei di vacanza dei turisti tedeschi, su tutti Spagna e Italia. Il 29 giugno scattano le ferie nella Nordrhein-Westfalia, una data da monitorare. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo alla politica italiana. Procede alla Camera l'esame del decreto rilancio con i tempi che si allungano. Prosegue alla Camera l'esame del decreto rilancio varato dal governo il 14 maggio, ma la maggioranza fatica a trovare la quadra sui molti dossier aperti e i tempi dell'esame si allungano. Sarà dunque probabile una sola approvazione con modifiche alla Camera e poi una sola seconda lettura senza modifiche al Senato. Il decreto contiene nuove risorse in deficit per 55 miliardi di euro con la proroga degli ammortizzatori sociali, il taglio dell'IRAP e gli aiuti alle imprese, le risorse alla sanità, gli aiuti agli enti locali, il super bonus al 110% per l'edilizia. E un emendamento recepirà il decreto 16 giugno che consente alle imprese di utilizzare subito i 4 mesi aggiuntivi di cassa integrazione. Ma molte nuove esigenze sono sul tappeto e gli 800 milioni messi a disposizione dal governo per le modifiche non basteranno. Tra le ipotesi, l'estensione del 110% ad alberghi e seconde case, aiuti più consistenti al turismo e più finanziamenti a fondo perduto alle imprese, ulteriori sostegni a comuni e regioni, aiuti ai professionisti degli ordini, aiuti al settore auto. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Resistere ad attacchi allo Stato democratico, queste le parole oggi del Presidente della Repubblica Mattarella. Un appello, quello del Capo dello Stato, in un messaggio per l'anniversario dell'uccisione del giudice Mario Amato. Mattarella rievoca quanto avvenne il 23 giugno dell'80, la morte del giudice in uno spietato agguato rivendicato da un'organizzazione della destra eversiva. Rievocare la sua vile uccisione, scrive allora il Presidente della Repubblica, richiama la necessità per tutti di resistere agli attacchi contro lo Stato democratico, che oggi assumono la forma, meno violenta ma ugualmente letale, delle logiche compromissorie dell'indifferenza. Sostituto procuratore a Roma, prosegue il capo dello Stato, Mario Amato fu assassinato a soli 43 anni affinché fossero intralciate le indagini che gli stava conducendo in un clima di isolamento all'interno del suo ufficio giudiziario sul terrorismo neofascista, fenomeno di cui era riuscito ad avere una visione sistemica grazie alla sua innovativa modalità investigativa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi la scuola, col nuovo anno torna, l'avete sentito all'inizio, l'educazione civica obbligatoria in tutti i gradi dell'istruzione a partire dalle scuole dell'infanzia e con il voto in pagella, e per il rientro a settembre turni differenziati e lezioni in aula anche il sabato e online. Poi per parlarne ci saranno ospiti di Effetto Notte il costituzionalista Celotto e il rappresentante dei presidi Mario Rusconi. Si torna a parlare del delitto di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi, ricordate, perché l'avvocata di Alberto Stasi, condannato per il delitto avvenuto nel 2007 della 26enne fidanzata, condannato a 16 anni, chiede la revisione della sentenza. Non l'ha uccisa Alberto, ci sono nuove prove, sostiene la legale. Ora la Corte d'Appello di Brescia dovrà fissare la data dell'udienza che dovrà valutare l'ammissibilità di questo ricorso, e ne parlerò in questa puntata con la criminologa notissima Roberta Bruzzone. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto sull'inchiesta relativa alle presunte tangenti nel sistema della metropolitana. Ho chiesto ad ATM, l'azienda cioè che gestisce il trasporto pubblico a Milano, di prendere provvedimenti rapidi. Queste persone devono essere allontanate, dice Sala, licenziate, quello che si può fare. Se le cose stanno così, la giustizia intervenga rapidamente e le pene siano anche esemplari. 8 gare di appalto per 150 milioni di euro da parte di ATM, l'azienda di trasporto locale di Milano, sono finite sotto la lente della magistratura e nell'ambito dell'indagine sono state eseguite 13 ordinanze di custodia cautelare, 12 in carcere e una domiciliari, a carico di alcuni dei presunti responsabili di un sistema messo in piedi per alterare le gare a evidenza pubblica. In tutto sono 30 gli indagati, cui si aggiungono 8 società che hanno vinto gli appalti sotto esame, comprese aziende dei gruppi Siemens e Alstom. Tra gli arrestati c'è anche un dirigente di ATM, società che è considerata parte lesa in questa vicenda. Gli inquirenti, come spiegato dalla Procura di Milano che conduce gli accertamenti, hanno ricostruito decine di episodi corruttivi e di turbativa d'asta, maturati in particolare nel settore degli appalti per l'innovazione e la manutenzione delle metropolitane milanesi. Nel corso dell'operazione, la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito anche una serie di perquisizioni e sequestri presso le sedi di società e le abitazioni degli indagati. Flavia Carletti da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 ore. E adesso concentriamoci su uno spot assolutamente fuori luogo, per non dire altro. Venite in Calabria, una regione senza troppi turisti a causa di mafia e terremoti. Questo è il comunicato della compagnia aerea EasyJet, che lascia sbalorditi non solo i calabresi. Le scuse sono arrivate velocemente dopo la polemica che si è originata a causa della descrizione realizzata con troppa leggerezza delle meraviglie della Calabria. Sul sito della compagnia EasyJet, la regione del sud Italia, cuore della Magna Grecia e con 3 parchi nazionali, era citata per un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti. Una regione che soffre la mancanza di città iconiche capaci di attrarre i fan di Instagram. La cartolina non è piaciuta proprio a nessuno, piena com'era di pregiudizi che la gente calabrese faticosamente cerca di scrollarsi di dosso, senza negare l'andrangheta, che pure viene quotidianamente combattuta e che non è certo un fenomeno presente solo a certe latitudini. E che dire dei terremoti? L'ultimo catastrofico evento con vittime risale al 1908. La Calabria, tra le regioni con meno contagi da Covid-19, proprio sulla sua immagine turistica vuole puntare, sulla sua storia millenaria e le sue bellezze naturalistiche tra mare e monti. La compagnia aerea ha chiesto subito scusa e ha rimosso il testo, annunciando un'indagine interna sull'accaduto. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Catanzaro. Le condizioni di Alex Zanardi rimangono stabili, situazione incoraggiante secondo i medici dell'ospedale di Siena, che però hanno deciso di rinviare il risveglio dal coma. Eventuali decisioni per la valutazione dello stato neurologico, si legge nel bollettino medico, verranno prese in considerazione della prossima settimana. Il campione bolognese resta quindi in prognosi riservata. Ancora cronaca, l'ex direttore del TG4, Emilio Fede, è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri sera stava cenando sul lungomare con la moglie in occasione del suo 89esimo compleanno. Fede deve scontare altri 4 anni ai servizi sociali e non avrebbe atteso l'autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli. Per chiudere lo sport, a cominciare dal tennis, il cluster di Zara, cioè il focolaio di Zara, è stato innescato, come appare ormai chiaro, dall'Adria Tour, torneo benefico organizzato dal campione di tennis Djokovic. Mette i brividi al tennis internazionale, che ha in programma di ripartire ad agosto per gettarsi alle spalle il lungo stop dovuto alla pandemia. Torneo a Zara, l'Adria Tour, promosso da Novak Djokovic, mentre il tennis è ancora più o meno in lockdown, almeno per le grandi competizioni. Una notte da tennisti in discoteca a chiudere la tappa precedente del tour a Belgrado. Ora ecco, uno dopo l'altro, la classifica dei positivi. L'ultimo era stato Troicki, numero 5, e adesso Nole Djokovic e sua moglie Jelena, positivi asintomatici dopo aver rifiutato i test in Croazia ed essere rientrati in Serbia, dove sono stati sottoposti ai tamponi risultati rossi. Normale conseguenza al putiferio polemico, perché a Zara non sono state rispettate misure di prevenzione adeguate, perché Djokovic, oltre ad essere attualmente il più forte tennista al mondo, è personaggio tutt'altro che banale, comprese le sue dichiarate posizioni Novax, tanto che anche nei giorni scorsi aveva detto di essere contrario a prendere un vaccino per il virus anche se fosse diventato obbligatorio per viaggiare. Nole sottolinea le finalità filantropiche del torneo, ma non può bastare a giustificare questo pandemonio in cui i tennisti non si sono fatti mancare nulla, assembramenti musicali compresi. Carlo Genta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è il calcio di Serie A, calcio di Serie A maschile, con il nostro Dario Ricci, il prosieguo della 27esima giornata, no? Da ieri, Dario? Eh sì, è quasi difficile tenere il filo, no? Di questa Serie A che fino al 2 agosto ha intenzione di procedere a ritmi serratissimi. Comunque, appunto, 4 le partite in programma oggi, siamo veramente solamente ad una manciata dalla conclusione sia di Spal Cagliari, ancora ferma sullo 0-0, sia soprattutto del big match di serata al Bentegodi, Verona-Napoli, con i partenopei in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Milik, il colpo di testa sul finire del primo tempo. Nella ripresa il Verona aveva pure trovato il gol del pareggio con Faraoni, rete però annullata dal VAR per un fallo precedente da parte dei veronesi nel corso dello sviluppo dell'azione. Alle 21:45 poi Genoa-Parma e Torino-Udinese, ma poi tanto ci ritroviamo per gli aggiornamenti, Roberta, ma poi pure domani. Certamente, sera, perché si gioca quasi sempre. Siamo qua, a tra poco. Grazie Dario Ricci. Intanto scrive un ascoltatore, cartolina ironica quella contro la Calabria di EasyJet, dice non ci ricamerei troppo sopra. Insomma, diciamo che dire che la Calabria è tutta terremotata, invasa dai mafiosi, per questo a pochi turisti, non mi sembra tanta ironia. Non credo che la Brasile l'abbiano presa bene, ma neanche l'Italia, ecco. E dopodiché, per quanto riguarda l'educazione civica, di cui parleremo tra pochissimo, il grande ritorno. Elena dice l'educazione civica va fatta studiare, ma non solo agli studenti. Fabrizio, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, numero per WhatsApp, Mauro dice, ma arrivano. Sì, ma ancora in modo un po' rallentato. Fabrizio dice, l'educazione civica manca tanto alla nostra popolazione come manca il senso dello Stato, del dovere, dei diritti. C'è stato un calo diffuso nella coscienza del nostro popolo, secondo Fabrizio. Ci sentiamo un momento. Vuoi rendere agile la tua azienda per essere veramente smart? Passa a Pantera, l'ERP italiano che copre tutti i processi gestionali, facilitando la collaborazione e mobilità di tutti i soggetti dell'ecosistema aziendale. Se il tuo gestionale è un assistente affaticato e passivo, è il momento di passare a Pantera. Finalmente i tuoi processi diventeranno proattivi e l'informazione ti inseguirà ovunque. Anticipa il cambiamento. Passa a Pantera. Pantera è una soluzione di VAR Group. E ricorda, Pantera si scrive con il TH. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E dopo la sintesi della giornata entriamo nel cuore delle notizie con gli ospiti. Tra pochissimo Roberta Giordano sempre con voi. Intanto i vostri messaggi che vedo proliferare tra la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, sempre lì per voi, e poi i messaggi WhatsApp, anche se scusatemi stasera continuano a essere un pochino rallentati. Sull'educazione civica diceva Elena appunto che andrebbe fatta studiare non solo ai studenti. Per Fabrizio c'è un calo di senso civico un po' nel nostro paese. Mario dice, penso che ripristino della materia può fare solo bene. Educazione civica, senso civico, civismo, tutto quello che ha a che fare con la civis, dice. Mentre Maria dice, sulla signora Razzolina, dice sciocchezze. Detto questo, educazione civica è sempre benvenuta, manca da troppo tempo e si vede. Poi Sandro scrive, educazione civica era ora, speriamo sia utile visto il livello di maleducazione. La riapertura non è fatta solo di misure di sicurezza e di prevenzione del contagio, stiamo guardando anche oltre. Dal prossimo settembre, ad esempio, troverà applicazione la legge sull'educazione civica, che torna ad essere obbligatoria, valutata con voto. Il ritorno dell'educazione civica riguarderà tutti i livelli di istruzione, dai bambini dell'infanzia al secondo ciclo. Quindi era nell'aria già da molto tempo e ora diventa realtà il ritorno dell'educazione civica a scuola. In realtà, diciamo che è diventato legge questo del ritorno all'educazione civica già il 1 agosto dell'anno scorso, del 2019, e ora avete sentito l'annuncio ufficiale della ministra dell'istruzione Azzolina. Quindi torna l'educazione civica a essere materia obbligatoria con voto in pagella. Però prima di sentire altri passaggi della ministra Azzolina di oggi, questo annuncio, vorrei che un sapiente costituzionalista qual è Alfonso Celotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi Roma 3, ci desse una definizione di ciò che si intende in modo sintetico, semplice, di educazione civica. Alfonso Celotto, buonasera e bentornato. Buonasera. Quindi grazie, quindi non gliela do ai sensi della normativa vigente la definizione di educazione civica. Come preferisce, basta essere no, chiaro. Cioè, allora, sì. La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, quindi sono le regole base della nostra vita. Sono le regole che riguardano i diritti ma anche i doveri dei cittadini e sono le regole sull'organizzazione del potere, cioè sull'organizzazione della Repubblica. Ora, un buon cittadino deve conoscere queste regole fondamentali, le regole quindi dell'educazione per essere cittadini, perché il grande passaggio, questo lo voglio ricordare sempre, è stato da sudditi a cittadini, perché noi fino al 1946 eravamo sudditi, cioè avevamo un capo che era superiore a noi, adesso siamo tutti uguali cittadini, però essere cittadini significa sapere esercitare i propri diritti e quindi conoscere le regole. Sentiamo quest'altro passaggio della ministra Azzolina che parla di diritti e doveri sin da piccoli. Lavoreremo affinché le ragazze e i ragazzi cittadini siano consapevoli e conoscano i propri diritti e doveri e affinché fin da piccoli possano imparare principi come il rispetto dell'altro, il rispetto dell'ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. E poi che su cosa si dice, che dice la ministra Azzolina, che si basa l'educazione civica, quella che intende insomma riportare a scuola in modo obbligatorio e in tutti i gradi dell'istruzione, a partire appunto dalla scuola dell'infanzia. Sentiamo quali sono gli assi attorno ai quali ruoterà l'educazione civica. Le linee guida che abbiamo predisposto ruotano attorno a tre assi, sui quali si baserà anche l'insegnamento in classe. Il primo riguarderà l'approfondimento della Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. Il secondo asse è quello dello sviluppo sostenibile, che si concentrerà sull'educazione ambientale, sulla conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Il terzo asse è quello della cittadinanza digitale, a cui tengo particolarmente, perché pur essendo i nostri giovani nativi digitali, hanno bisogno di essere adeguatamente sensibilizzati rispetto ai rischi che si corrono nell'utilizzo della rete e dei social media e formati rispetto ad un uso corretto e consapevole del linguaggio e del web. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo e il problema diffuso dell'utilizzo di un linguaggio violento ci dicono che c'è molto da fare. Che ne pensa, professor Celotto? Ma io penso che sia un programma necessario sia per le regole fondamentali, cioè conoscere la Costituzione era un tema che ci hanno raccontato anche proprio i costituenti, perché l'ultimo articolo, l'ultima disposizione finale, la 18ª, recita proprio questo: la Carta Costituzionale resta fissa nella casa comunale di tutti i comuni per tutto l'anno 1948 affinché tutti i cittadini possano averne conoscenza. Questo fu un grande sforzo dei costituenti, cioè scrivere una Costituzione chiara, semplice, con parole comuni, frasi facili e farla conoscere ai cittadini. Allora non c'era Facebook, non c'era Instagram e quindi la lasciassi affissa per tutto l'anno 1948. E nella Costituzione abbiamo diritti, doveri. I doveri sono importanti perché non abbiamo solo diritti, quindi doveri di partecipazione, tante di solidarietà, tante cose. E poi, al di là dell'organizzazione del potere, perché fin da piccolo devi capire la differenza tra Parlamento e Governo, c'è questo problema, secondo me, fondamentale, l'io digitale. Cioè noi oggi, ciascuno di noi, non ha più solo la sua personalità, ma anche l'io digitale, che sarebbe il nostro specchio in rete. Tutto ciò che facciamo sul telefonino, nei social network, che è un altro io, e bisogna stare molto attenti, perché noi sappiamo che ormai a un colloquio di lavoro, a quando vai a chiedere il mutuo, quando chiedi una polizza assicurativa, la prima cosa che vanno a controllare è il tuo io digitale, cioè tutte le tracce che hai lasciato in rete, che quindi possono essere molto pericolose, perché uno, se per scherzare comincia a dire anche delle sciocchezze, ti lascia quella traccia. Quindi consapevolezza fin da piccoli, fin da bambini, fin da ragazzi, di quello che è l'uso consapevole e utile della rete, anche per prevenire cyberbullismo, fenomeni anche molto più gravi che spesso li leggiamo, però secondo me è fondamentale. Certo, sono cose che vanno sapute spiegare, perché anche io che insegno diritto costituzionale all'università, quando devo andare a fare una lezione alle scuole elementari sono molto preoccupato, perché spiegare la Costituzione ai bambini non è facile. Una cosa complessa. Che ne dice il professor Mario Rusconi? Ricordo, è preside dell'Associazione Nazionale Presidi Sezione Lazio, e poi sapete, insomma, parla naturalmente quando si parla di scuola, è sempre molto presente, molto sul pezzo. Rusconi, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, vorrei fare presente che la vecchia educazione civica non era stata mai espunta dai programmi scolastici, soltanto non veniva svolta. Io ho avuto, diciamo, la possibilità, l'onore anche di partecipare l'anno scorso alla commissione che ha elaborato, diciamo, una serie di materiali che sono serviti al Parlamento per ampliare il concetto proprio di educazione civica. Allora, come diceva prima il Ministro, l'educazione civica significa in questo momento non solo la conoscenza delle strutture istituzionali italiane ed europee e direi anche mondiali, l'ONU, l'UNESCO e così via, vuol dire anche l'educazione digitale, la cosiddetta cittadinanza digitale, l'educazione ambientale, pensi che è stato introdotto anche il concetto giustamente di educazione stradale, cioè in poche parole si è ampliato a 360 gradi il panorama dell'educazione che dovrebbero appunto poter metabolizzare i nostri ragazzi. La cosa importante è che siccome non finisse come una cenerentola come era successo negli anni precedenti, nel senso che non veniva svolta, è diventata materia a sé stante, ha un voto, viene sviluppata in 33 ore annuali da diversi insegnanti e sarà il collegio dei docenti a stabilire chi farà l'educazione ambientale nell'ambito delle proprie ore di servizio, non c'è necessità di avere ulteriori insegnanti, chi appunto approfondirà per esempio l'insegnante di storia o di storia e filosofia gli aspetti riguardanti la Costituzione, l'insegnante di scienze gli aspetti relativi all'educazione ambientale e così via. Quindi trasversale saranno i vari insegnanti di materie diverse che per quello che è loro competenza insegneranno man mano degli aspetti relativi all'educazione civica. E questo è un aspetto molto interessante anche perché impone solidaristicamente ai nostri insegnanti di saper lavorare in team, perché poi se l'educazione civica viene svolta da 5 insegnanti su 10 di un consiglio di classe non è che avrà 5 voti, si dovranno mettere d'accordo per stabilire il voto che il ragazzo deve avere. Il fatto che sia in pagella col voto è una garanzia che sarà svolta. Speriamo che non sia una questione complessa il fatto che più insegnanti devono mettersi d'accordo, però vedo che la gran parte di ascoltatrici e ascoltatori sono tutti favorevoli. Elena dice, sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte o ai WhatsApp al 349-238-6666, l'educazione civica comincia da quando si nasce con le modalità adeguate all'età. Silvia dice viva l'educazione civica. Davide, mi sembra che ci sia un gran bisogno di educazione civica in Italia oggi, vi ascolterò come tutte le sere con grande interesse da Dublino, e anche questa educazione civica, ascoltare Effetto Notte tutte le sere. Simone, l'educazione civica è importante ma dipende da come e da chi viene insegnata, ai miei tempi era una scusa per andare in giardino per perdere tempo. Floriano dice educazione civica è molto importante ora in modo particolare, e poi anche Marco dice che ascolta con interesse. Carlo, educazione civica nelle scuole oggi mi preoccupa perché c'è il rischio che si trasformi in un momento di indottrinamento non tanto basato sull'ideologia, quella sempre stata presente, ma sulla disinformazione. Che ne pensa molto brevemente Celotto? No, io non vedo questo rischio, io non credo che si faccia indottrinamento. Certo, bisogna rendere consapevoli gli insegnanti di come spiegarle queste cose, però dare un concetto ai ragazzi, ai bambini, facciamo un esempio, tante volte dice, il nostro Presidente del Consiglio non è stato eletto, no, tante volte lo si è detto di Monti, sì, di Renzi, di Conte, e invece fin da ragazzi devi capire che noi siamo una Repubblica parlamentare, nella Repubblica parlamentare si elegge il Parlamento e non il Presidente si elegge nelle Repubbliche presidenziali come gli Stati Uniti, per raccontare una cosa del genere significa rendere i cittadini più consapevoli, questa è informazione corretta, certo. Vanno accompagnati i docenti ad essere consapevoli di questo, e poi l'ambiente, l'educazione statale, che sono pezzi fondamentali della nostra vita, perché essere cittadini significa essere cittadini consapevoli, quindi sapere quali sono le regole, sapere che conviene vivere legalmente. Quindi io non mi preoccupo, anzi mi sembra che 33 ore settimanali possono anche essere poche, forse annuali, poche, stavo pensando anche io, un'ora alla settimana, è tipo quelle materie cenerentola, no? La religione, l'educazione fisica, che restano lì un'ora a settimana. Vediamo comunque di cominciare. Rusconi, sentiamo anche questo passaggio della ministra Azzolina che parla della scuola del futuro, anche perché cominciano a circolare le linee guida per il rientro a settembre. Si parla di frequenza scolastica in turni differenziati, organizzazione della classe in più gruppi di studio formati anche da alunni di diverse classi ed età, scuola anche il sabato, attività didattica a distanza che resterà ma solo in misura marginale, solo per gli studenti delle secondarie. Non si parla di mascherine plexiglass in questo testo, ma sentiamo Azzolina. Le linee guida sono un documento snello che i dirigenti scolastici potranno consultare e attuare facilmente. Realizzare questo documento e inviarlo alle scuole è un atto non solo amministrativo, ma anche un atto profondamente simbolico. Ci dice che l'avvio del nuovo anno scolastico sarà non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l'inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva. Solo così le difficoltà che stiamo affrontando a causa della pandemia saranno non solo un ostacolo da superare, ma un'occasione di miglioramento, uno stimolo a guardare avanti per tutti. Rusconi, per chiudere molto sinteticamente, abbiamo ancora un minuto, che ne pensa quindi delle linee guida del futuro che annuncia la ministra Azzolina, visto che tutti guardano a settembre con anche una certa apprensione, no? Guardi, noi stiamo aspettando le linee guida, quelle definitive del Ministero dell'Istruzione. Non sarà molto difficile mantenere, diciamo così, le misure di sanitarie e di profilassi, mucchina, mascherine, eccetera. Il problema grosso, il Ministero lo sa, ma non solo il Ministero, io oggi ho parlato proprio con l'assessore della Regione Lazio, il problema grosso sarà come mantenere i distanziamenti nelle famose classi pollaio, perché avremo veramente centinaia di scuole che non sono in grado di mantenere quel distanziamento. Questo sarà un problema, un perché problema. Non sapremo dove mettere questi studenti, e dire che andiamo a dover cercare teatri, cinema e cose all'aperto ci sembra una cosa un po' fantapolitica, insomma. Grazie al Presidente Mario Rusconi, grazie al Professor Alfonso Celotto, grazie e buona serata. Un piacere, buonasera. E a presto. Buonasera. Quindi ci prendiamo sempre una piccola pausa di riflessione, potete continuare a scrivere i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e WhatsApp al 349-238-6666, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando la vostra imprescindibile colonna sonora della sera, orchestrata e diretta da Roberta Giordano, sempre con voi. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e poi a questo rallentato WhatsApp, che speriamo in questi giorni di riuscire un pochino a mettere un po' a regime, dice questo ascoltatore, questo è Paolo. Ci manca solo l'educazione civica, ne abbiamo appena parlato, no? Con il ritorno annunciato dall'amministra Azzolina, dice la scuola continua a essere vittima di ideologia, propaganda e chiacchiere, mentre un altro ascoltatore dice l'auspicato ritorno di educazione civica è un'ottima notizia, speriamo che il corpo docente sia sufficientemente preparato per insegnarla. E adesso invece ci spostiamo su una vicenda di cronaca nera risalente al 2007 che ha molto colpito l'opinione pubblica, è rimasta impressa anche nella memoria collettiva. Sto parlando del delitto di Garlasco, ovvero l'omicidio di Chiara Poggi. Perché torno a parlarne? Perché l'avvocata di Alberto Stasi, che è l'unico indagato ed è in carcere, è condannato a 16 anni per questo delitto, l'avvocata chiede un provvedimento rarissimo, cioè di ribaltare una sentenza ormai definitiva, quella a 16 anni di carcere. Dice l'avvocata Panciroli: abbiamo argomenti nuovi, mai valutati prima, in grado di escludere una volta per tutte la sua responsabilità. Va detto che io ho cercato più volte al telefono oggi l'avvocata, e anche le ho mandato dei messaggi, però non ha mai risposto, quindi non possiamo neanche avere un suo commento. E mentre saluto e ringrazio per la disponibilità Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, che non ha certo bisogno di presentazioni. Buonasera dottoressa Bruzzone. Buonasera a voi. Ricordo brevemente la vicenda per chi non la ricordasse. Certo. Appunto, era il 13 agosto del 2007 quando la 26enne Chiara Poggi fu trovata morta nella casa di famiglia Garlasco in provincia di Pavia. Quasi subito le indagini si sono concentrate sul suo fidanzato Alberto Stasi, che era stato con lei ufficialmente fino alla sera prima dell'omicidio. Poi ci sono stati vari colpi di scena in questi anni, arresti, scarcerazioni, assoluzioni, ribaltamenti, finché il 12 dicembre del 2015 la Cassazione ha confermato la sentenza bis della Corte d'Appello di Milano, condannando Stasi a 16 anni. Già nel giugno del 2017 la Cassazione aveva dichiarato inammissibile un ricorso di allora contro questa sentenza. Ora sono passati 13 anni. E dottoressa Bruzzone, quindi, a parte questa mia estrema sintesi, ci dà qualche elemento in più per capire quali elementi hanno portato alla condanna definitiva? E lui si è sempre, tra l'altro, dichiarato innocente, Stasi. Allora, no? Allora, questa è una vicenda che sicuramente sotto profilo processuale è stata abbastanza controversa, perché ricordiamo che Stasi ha avuto due assoluzioni in primo e secondo grado, un annullamento con la prima, diciamo, con la prima Cassazione, con invio a nuovo processo in Corte d'Appello. Processo che l'ha visto condannata alla pena appunto di 16 anni, ricordiamo che lui comunque scelse il rito abbreviato, insomma, quindi chiaramente la condanna a 16 anni è anche l'esito, diciamo, di questa scelta difensiva. Dopodiché la Cassazione invece confermò la condanna dell'appello bis. Quindi insomma gli elementi che hanno portato alla condanna sono principalmente collegati alla assenza di tracce di Alberto sulle scarpe di Alberto in concomitanza del fatto che verosimilmente avrebbe dovuto avere tracce di sangue di Chiara se davvero fosse rientrato nell'appartamento per trovare il corpo della ragazza. Perché era lui che aveva trovato il corpo e aveva lanciato l'allarme, lui, no? Intorno alle 13:30 di quello stesso giorno chiamò il 118 e si recò contestualmente dai carabinieri, a caserma molto vicina all'abitazione dei Poggi, e diede l'allarme, ossia segnalò la presenza del corpo di Chiara con delle incongruenze relativamente poi al posizionamento finale, però fu lui a dare di fatto l'allarme. Quindi ci fu un po' dei problemi per quanto riguardava la collocazione dell'epoca della morte di Chiara, perché lui dalle 9:30 circa fino alle 12 aveva comunque un alibi abbastanza consolidato, perché era sicuramente davanti al suo computer a lavorare alla propria tesi. Quindi insomma, ma l'omicidio effettivamente, secondo poi l'ultima stima del medico legale, era da collocare in un'epoca antecedente rispetto all'alibi che lui era in grado di fornire. Quindi comunque, ripeto, l'elemento cardine su cui ha giocato moltissimo la condanna era proprio questa assenza di tracce che, secondo i periti del processo bis, era assolutamente inverosimile in considerazione della quantità di sangue veramente notevole che c'era all'interno della scena del crimine. Quindi, siccome chiaramente Alberto Stasi non poteva volare, il fatto di non essersi sporcato, secondo questi consulenti, era totalmente impraticabile, è ragion per cui l'unico modo attraverso cui poteva sapere della presenza del corpo di Chiara è che in quella condizione ce l'avesse messa lui. Fondamentalmente il ragionamento della condanna definitiva è stato questo. Ora apprendiamo, ancora non ne conosciamo assolutamente i contenuti, apprendiamo che peraltro Stasi è stato seguito per molti anni dallo studio Giarda, mi pare di capire quindi che abbia cambiato anche le gali. Sì, no? Esatto. Quindi questa nuova avvocatessa ritiene di avere degli elementi abbastanza importanti. Consideri che l'istituto della revisione è un istituto molto molto complesso, per cui intanto c'è un primo vaglio di ammissibilità, quindi vedremo cosa ne penserà la Corte d'Appello di Brescia. E secondariamente poi chiaramente, se laddove dovesse esserci una valutazione preliminare di ammissibilità, a quel punto ci sarà una fissazione di udienza e le parti potranno naturalmente argomentare su tutti gli elementi che sono stati portati all'attenzione attraverso questa memoria, questa istanza di revisione. E vedremo, ripeto, io non sono assolutamente al corrente di quali siano questi elementi. No, sì, non è stato possibile sapere. Quindi non so dirle quanto possano essere fondati. Che possibilità ci sia. Posso dirle che insomma già la precedente difesa di Stasi si era avventurata nella vicenda Sempio con una serie di passaggi che poi si erano rivelati completamente infondati, tant'è che la posizione di Sempio venne archiviata abbastanza velocemente. Poi non so se ci sono stati ulteriori sviluppi tra Stasi e la difesa di Stasi e questo signore, però sicuramente l'indicazione di indagare nei confronti di Sempio aveva portato un'archiviazione della posizione di questo ragazzo. Quindi non so ora che tipo di argomentazioni possono essere nuovamente esaminate, anche perché guardi, questa è una storia in cui le consulenze tecniche sono state tantissime, anche le perizie disposte sia durante il primo grado del dibattimento davanti al GUP, ma anche poi nel secondo appello. Quindi obiettivamente il dato scientifico qui è stato ampiamente percorso, quindi non ho proprio idea di quale possano essere gli elementi su cui possono aver basato una istanza di revisione. Al momento, ripeto, non li conosco e quindi sono anche abbastanza curiosa. Posso dirle che l'iter processuale, a mio modo di vedere, è stato molto esaustivo, quindi la vedo un po' difficile trovare elementi che possano scardinare l'impianto accusatorio, onestamente. Chiarissima, dottoressa Bruzzone. Poi vedo che il presidente della Corte d'Appello di Brescia, che dovrà valutare, Claudio Castelli, ha detto i tempi possono essere abbastanza rapidi, entro fine luglio potremo già decidere sull'ammissibilità di questa istanza. Sì, ma questo primo vaglio fondamentale è l'ammissibilità, ossia se davvero c'è qualcosa di concreto su cui vale la pena poi confrontarsi in aula. Certo. Prima, quindi vedremo, questa prima valutazione ci dirà se effettivamente la richiesta comunque ha dei margini di fondatezza oppure no. Aspetteremo quindi luglio. Grazie, sì. Grazie a Roberta Bruzzone. Grazie a voi, buona serata. Grazie. C'è la viabilità. Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri e acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio Alfa Romeo Stelvio Super con cerchi Lega da 19 pollici e tuo da 349 euro al mese. Con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 30 giugno e soggetta ad approvazione Lisis, durata del noleggio 36 mesi. Anticipo 11.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Proseguiamo addentrandoci dentro le varie notizie. Abbiamo appena parlato del caso di Garlasco, che fa nuovamente ritorna appunto alla ribalta delle cronache proprio perché l'avvocata di Alberto Stasi, lo abbiamo spiegato con la criminologa Roberta Bruzzone, vuole ribaltare la sentenza, vuole riaprire il processo. Vediamo se ci saranno questi elementi. Sull'educazione civica, di cui abbiamo parlato invece all'inizio, Eusebio sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: era ora, non può mancare in una nazione, mi meraviglio dei nostri politici. Mentre un altro ascoltatore dice: Carlo, dovrebbero studiarla anche i politici, visto che parlano di mancata elezione del Presidente del Consiglio. Questo già l'aveva chiarito il costituzionalista Celotto. Adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Marco Valsania. Caro Marco, ben ritrovato. Buonasera. Marco, il presidente americano Trump si trova, diciamo, in un periodo piuttosto complesso, no? Il flop del suo comizio in Oklahoma nei giorni scorsi, il Covid che continua a diffondersi, in particolare in questo momento in Texas, il virologo della Casa Bianca Fauci, che vede una crescita preoccupante, il caso Floyd che continua a generare proteste con le statue che vengono abbattute. Insomma, diciamo che è un momento difficile, se così si può dire, Marco. Sì, sicuramente un momento difficile, una campagna presidenziale che per lui, diciamo, per la direzione che appare, diciamo, sicuramente tutta in salita in questo momento, con appunto sondaggi che riflettono questo calo di credibilità e di popolarità. Come ricordavi, oggi alcuni segni, diciamo, lo hanno ulteriormente confermato. C'è stata l'audizione di Fauci al Congresso, che sostanzialmente ha di fatto, diciamo, gettato acqua fredda su qualunque ottimismo del presidente, dicendo che le prossime 2 settimane saranno cruciali per capire la direzione della pandemia negli Stati Uniti, di questa nuova accelerazione della pandemia. Come ricordavi, stati come il Texas o la Florida stanno avendo impennate di casi e anche di ricoveri in ospedale, e quindi, diciamo, la tesi di Trump, che questo è legato semplicemente all'aumento dei test, non è di fatto smentita dai dati. Marco, scusami, ti aggiorno solo con questa notizia che riporta il New York Times, che dice: ancora troppi casi di Covid, l'Unione Europea valuta lo stop per chi proviene dagli Stati Uniti, quindi addirittura. Esatto. Esatto, questo sarebbe un ulteriore, diciamo così, smacco per Trump e per la leadership americana nelle sfide globali. L'Unione Europea sta considerando una lista di paesi per allentare le restrizioni a partire dal 1 luglio, paesi diciamo esterni all'Unione, e nelle liste che sta considerando gli Stati Uniti rimarrebbero fuori, proprio perché non hanno, cioè ci sarebbero la Cina, ci sarebbe il Vietnam, l'Uganda, ma non gli Stati Uniti, né la Russia, né il Brasile, qualificati come paesi che non hanno la pandemia sotto controllo e quindi diciamo che con cui verrebbero mantenute le restrizioni. Invece, Marco, sulla questione delle statue danneggiate o tirate giù, no? Dopo la morte di George Floyd a causa della famosa stretta dei poliziotti, ha intenzione Trump di emanare una legge, mi sembra, che condanni, che preveda delle sanzioni pesanti per chi distrugge le statue? Sì, diciamo, Trump continua a mantenere, diciamo, su quel fronte, sul fronte della mobilitazione, delle proteste sociali, diciamo, civili, a mantenere un muso duro, diciamo, un atteggiamento duro. L'ultimo esempio è questo della risposta, diciamo così, al danneggiamento, alla distruzione o comunque alla richiesta di rimozione delle statue, di simboli confederati e di altre statue, diciamo, che hanno un passato così discutibile. Ecco, la sua risposta oggi è stata di aver autorizzato il governo federale a muoversi per spingere per arresti e condanne pesanti a chiunque, diciamo, venga considerato così responsabile di atti di vandalismo nei confronti di quello che lui ritiene sia l'eredità comunque del paese, con arresti e condanne anche fino a 10 anni di carcere. Questo ha paventato Trump. Rimane da vedere se poi questo, diciamo, si tradurrà davvero in concrete risposte, ma diciamo la retorica del presidente è questa. E quindi lui ha alzato ulteriormente il tiro sul messaggio di legge e ordine. Chiaro, grazie Marco Valsani dagli Stati Uniti, un abbraccio, ciao Marco. A te. Ora invece c'è il nostro Dario Ricci, vediamo come sono proseguite le partite di Serie A maschile questa 27esima giornata, 27esima, Dario, 27, dica giorno, lei. Giorno dica di lei, paga, dai. Dovresti insomma essere abituata a pronunciarlo, insomma, numero a cui siamo affezionati. Insomma. A parte le mie battutacce, sì? I numeri che contano sono i risultati. Appunto. E allora, intanto in campo da qualche minuto le due gare delle 21:45, siamo all'ottavo di gioco a Marassi, Genoa, Parma. Parma sullo 0-0, così come a Torino sono sullo 0-0 i Granata contro l'Udinese, ma intanto già acquisite due pesanti vittorie in trasferta. Il Cagliari torna al successo dopo 12 turni grazie a una rete di Simeone in pieno recupero e sbanca così Ferrara, di fatto condannando, manca solo l'aritmetica a questo punto quasi, la SPAL alla retrocessione. 1-0 quindi per i sardi, e pesante soprattutto il 2-0 del Napoli al Bentegodi contro il Verona. Decidono il colpo di testa di Milik alla fine del primo tempo e nel finale il raddoppio di Lozano. Quindi questi i risultati, questi ultimi due definitivi: SPAL 0, Cagliari 1 e Verona 0, Napoli 2, mentre Genoa Parma e Torino Udinese sono attualmente sullo 0-0. Roberto, grazie al nostro caro Dario Ricci. Ciao Dario, per questo quadro delle partite, appunto quelle finite e quelle in corso. Direi che possiamo lasciarci tra pochissimo. Vedo ancora tanti vostri messaggi ai quali probabilmente non riuscirò a rispondere, come sempre invece faccio alla fine della trasmissione, proprio per questo problema, di cui dovete scusarci per il rallentamento insomma dei WhatsApp. Ringrazio tutti per i messaggi molto carini, poi ce ne sono diversi appunto sull'educazione civica, che mi pare comunque che la gran parte di voi abbia apprezzato come grande ritorno. Vi aggiorno alle 22.